Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. La lettera di Frank Churchill doveva trovare la via del cuore di Emma e costringerla, nonostante la precedente decisione in senso opposto, a rendergli tutta la giustizia che la signora Weston sperava. Appena arrivò al proprio nome, l'effetto fu irresistibile. Ogni riga che la riguardasse era commovente e quasi ogni riga gradevole. E cessato il fascino, l'argomentazione poté sostenersi per il naturale ritorno dell'antica simpatia per lo scrivente e la fortissima attrazione che per lei, in quelle circostanze, ogni quadro d'amore non mancava di avere. Non si interruppe prima di aver letto sino alla fine. E sebbene fosse impossibile non sentire che Frank aveva agito male, tuttavia era chiaro che aveva agito meno male di quanto ella avesse supposto. E aveva sofferto, e se ne rammaricava. Ed era riconoscente alla signora Weston, e tanto innamorato di Miss Fairfax, e lei stessa così felice, che esser severi era impossibile. E se Frank fosse entrato, gli avrebbe stretto la mano con la cordialità di sempre. Giudicava così bene quella lettera che quando Mr. Knightley ritornò, volle che anche lui la leggesse. Era certa del desiderio di Mrs. Weston che la si facesse conoscere, specialmente a chi, come Mr. Knightley, aveva trovato nel suo contegno tanto da biasimare. «Sarò ben felice di leggerla, ma sembra lunga. Me la porterò a casa stasera», disse lui. Ma questo non si poteva ammettere. La sera sarebbe venuto il signor Weston e bisognava restituirla a mezzo suo. «Preferirei parlarle», rispose Mr. Knightley, «ma poiché sembra che sia un problema di giustizia, bisogna farlo». Cominciò, fermandosi tuttavia quasi subito per dire: «Se una delle lettere di questo signore alla sua matrigna mi fosse stata offerta in visione alcuni mesi fa, Emma Carr non l'avrei accolta con tanta indifferenza». Proseguì per qualche riga, leggendo a bassa voce. Poi, con un sorriso, osservò: «Un bell'inizio, complimentoso, ma è nel suo stile. E lo stile di un uomo non deve dettar legge a quello di un altro. Non siamo severi». «Sarà naturale da parte mia», aggiunse poco dopo, «esprimere ad alta voce mentre leggo il mio parere. Così facendo mi parrà d'esserle vicino. Non sarà una gran perdita di tempo, ma se le dispiace...» «Affatto! Lo desidero!» Mr. Knightley tornò alla lettura con maggiore alacrità. «Qui, a proposito della tentazione», disse, «Frank bara. Sa di avere torto e non ha nulla di ragionevole da portare in campo. Male. Non avrebbe dovuto fidanzarsi». «La tendenza di suo padre...» «È ingiusto verso suo padre. Il temperamento ottimista di Mr. Weston è stato una manna per tutte le sue nobili e oneste attività, mentre lui ha mietuto ogni conforto presente prima di essersi sforzato di guadagnarlo. Ah, verissimo, non è venuto prima che Miss Fairfax fosse qui. E non ho dimenticato il suo parere che sarebbe potuto venire prima», disse Emma, «se avesse voluto. Lei ora ci passa sopra, ma aveva perfettamente ragione. Non ero affatto imparziale nel mio giudizio, Emma, ma penso che quando anche non fosse stata in causa lei, ne avrei pur sempre diffidato». Quando arrivò a Miss Woodhouse, fu costretto a leggere tutto ad alta voce, tutto ciò che a lei si riferiva, con un sorriso, uno sguardo, un moto della testa, una parola o due di consenso o di dissenso, o semplicemente di amore, a seconda che il tema richiedeva, concludendo però seriamente e dopo intensa riflessione come segue: «Malissimo, sebbene potesse essere peggio. Scherzare è un gioco molto pericoloso. Deve troppo al caso per essere assolto. Del suo contegno nei riguardi di lei non può essere giudice. Sempre ingannato in realtà dai suoi desideri e di poco riguardoso oltre alla propria convenienza. Immaginarsi che lei avesse indovinato il suo segreto. Abbastanza naturale. La sua mente è così piena di intrighi che non può non sospettarne gli altri. Misteriosità, astuzia, come pervertono l'intelligenza. Emma cara, non è forse vero che ogni cosa tende a mostrare sempre più la bellezza della verità e della sincerità nei nostri rapporti reciproci? Emma lo riconobbe con un rossore di sensibilità nei riguardi di Harriet, di cui non poteva dare una spiegazione leale. «Farebbe meglio continuare la lettura», disse Emma. Così fece Mr. Knightley, ma ben presto si interruppe nuovamente per dire: «Il pianoforte! Oh, l'atto di un giovane ancora molto, molto ragazzo! Troppo ragazzo per chiedersi se la sconvenienza non ne avrebbe potuto superare di gran lunga il piacere. Una ragazzata, in verità! Non posso capire il desiderio di un uomo di offrire a una donna una prova di affetto di cui sa che essa farebbe volentieri a meno. Eppure sapeva che Miss Fairfax, se avesse potuto, si sarebbe opposta all'invio dello strumento». Dopo questo proseguì per un po' senza pause. La confessione di Frank Churchill d'essersi comportato indegnamente fu la prima cosa a esigere più di una parola di passata. «Perfettamente d'accordo con lei, signore», fu la sua osservazione. «Si è comportato in modo molto indegno. Non ha mai scritto riga più vera». E sorbito tutto ciò che immediatamente seguiva sulle ragioni del loro disaccordo e sulla pervicacia nell'agire in contrapposto al senso del giusto proprio di Jane Fairfax, si fermò più a lungo per dire: «Malissimo! L'aveva spinta per amor suo ad accettare una condizione di estrema difficoltà e imbarazzo, e il suo primo obiettivo avrebbe dovuto essere di impedirle di soffrire più del necessario. Nel tenere quella corrispondenza, la ragazza deve aver faticato ben più di lui, e lui avrebbe dovuto rispettare scrupoli anche irragionevoli, se mai ce ne fossero stati, ma quelli di lei erano tutti ragionevoli. Dobbiamo guardare all'unica sua colpa e ricordare che aveva sbagliato ad accettare il fidanzamento per tollerare che sia rimasta in un simile stato di punizione». Emma sapeva che si avvicinava al punto della gita a Box Hill e cominciò a sentirsi in imbarazzo. Anche il suo contegno era stato così sconveniente. Ne provava una terribile vergogna e aveva un po' paura del modo come fra un momento l'avrebbe guardata. Ma tutto fu letto con attenzione e fermezza e senza il minimo rilievo. E a parte un'occhiata di sfuggita, immediatamente repressa per timore di addolorarla, parve che di Box Hill non esistesse ricordo. «Non c'è molto da dire a favore della delicatezza dei nostri buoni amici Elton», fu la successiva osservazione di Mr. Knightley. «I suoi sentimenti sono naturali. Come? Decidere di romperla definitivamente con lui. Sentiva che il fidanzamento era fonte di pentimento e di infelicità per entrambi. Lo scioglieva. Che idea dà della sofferenza che il suo contegno le procurava? Ma deve essere proprio uno straordinario. No, no, continui a leggere e vedrà quanto ne soffre», disse Emma. «Ah, lo spero bene», rispose freddamente Mr. Knightley e riprendendo la lettura. «Smallridge? Che significa ciò? Di che cosa si tratta?» «Aveva accettato il posto di governante dei figli di Mrs. Smallridge, una cara amica di Mrs. Elton e vicina di Maple Grove. A proposito, mi chiedo come Mrs. Elton accoglierà questa soluzione». «Non dica nulla, Emma cara, finché mi costringe a leggere, nemmeno su Mrs. Elton. Una pagina sola avrò presto finito. Che lettera scrive il brav'uomo! Vorrei che la leggesse con maggior benevolenza per lui. Beh, qui c'è del sentimento. Sembra che abbia davvero sofferto nel trovarla ammalata. Certo che sia innamorato di lei, non posso dubitare. Più cari che mai l'uno all'altra. Spero che continui a sentire tutto il valore di questa riconciliazione. È molto generoso in fatto di ringraziamenti, coi suoi 1.000 e 10.000, più felice di quanto meriti. Via, qui si conosce. Miss Woodhouse mi chiama il beniamino della sorte». Parole di Miss Woodhouse, no? Un bel finale. Ecco la lettera. «Il beniamino della sorte, eh? Così lo chiamava lei? Non sembra soddisfatto quanto me della sua lettera. e tuttavia, grazie ad essa, deve, almeno spero che debba, avere un'opinione migliore di lui. Mi pare che torni a suo vantaggio. Sì, certo. Ha avuto gravi torti di sconsideratezza e irreflessività. E sono pienamente d'accordo con lui nel ritenere probabile che sia più felice di quanto meriti. Ma poiché non v'è dubbio che è sinceramente affezionato a Miss Fairfax e si può sperare che gli toccherà il privilegio d'essere costantemente con lei, sono prontissimo a credere che il suo carattere migliorerà, acquistando da lei la fermezza e delicatezza di principi di cui ha bisogno. E ora lasci che le parli di qualcos'altro. Ho tanto a cuore gli interessi di un'altra persona ora che non posso più pensare a Frank Churchill. Da quando l'ho lasciata stamattina, Emma, la mia mente non ha fatto che girare intorno a una questione. La questione venne, nell'inglese semplice, privo di affettazioni, signorile, che Mr. Knightley usava con la donna di cui era innamorato, si aggirò intorno al modo di chiederne la mano senza turbare il benessere del padre. La risposta di Emma fu pronta alla prima parola. Finché il suo caro papà era in vita, cambiare stato le era impossibile. Non se ne sarebbe mai separata. Solo una parte della risposta, tuttavia, fu ammessa. Che le fosse impossibile lasciare il padre, Mr. Knightley lo sentiva altrettanto chiaramente. Ma sull'inammissibilità di ogni cambiamento di stato non poteva essere d'accordo. Ci aveva pensato molto intensamente, a fondo. Da prima aveva sperato di convincere Mr. Woodhouse a trasferirsi con lei a Donwell. Gli era piaciuto crederlo possibile, ma la sua conoscenza del signor Woodhouse gli impediva di illudersi a lungo, e ora confessava la persuasione che un simile trapianto avrebbe rappresentato un rischio per la tranquillità di suo padre, forse perfino per la vita di lui, e non lo si doveva correre. Il signor Woodhouse strappato ad Hartfield? No, sentiva che la cosa non tollerava esperimenti. Ma il piano nato dal sacrificio di quello, Emma non l'avrebbe trovato, confidava, per nulla da scartare. Che lo si accogliesse ad Hartfield, che fin quando la tranquillità del padre, in altre parole la sua vita, chiedeva che Hartfield fosse la casa di Emma, tale fosse anche per lui. A un generale trasferimento a Donwell, Emma aveva già fugacemente pensato. Come lui, aveva studiato e respinto il piano. Ma un'alternativa come quell'altra non si era mai affacciata al suo pensiero. Fu quindi sensibile a tutto l'affetto che tradiva. Sentì che lasciando Donwell, Mr. Knightley doveva sacrificare una gran parte della sua indipendenza di tempo e di abitudini. Che vivendo continuamente col padre e in casa non sua avrebbe dovuto sopportare molte, molte cose. Promise di pensarci e gli consigliò di rifletterci a sua volta. Ma egli era pienamente convinto che nessuna riflessione avrebbe potuto modificare i suoi desideri o le sue idee in merito. Le sue riflessioni, poteva assicurarle, erano state lunghe e calme. Aveva passeggiato tutta la mattina evitando William Larkins, appunto, per pensare ai casi suoi. «Oh, ecco una difficoltà imprevista!» esclamò Emma. «Sono certa che William Larkins non ne sarà soddisfatto. Deve ottenerne il suo consenso prima di chiedere il mio». Promise, tuttavia, di pensarci seriamente e, per di più, con l'intenzione più o meno esplicita di trovare che il progetto era ottimo. Strano è che fra i molti, moltissimi punti di vista sotto i quali cominciava a considerare Donwell Abbey, Emma non provasse mai la sensazione di recare nocumento a suo nipote Henry, i cui diritti d'erede presuntivo aveva difesi in passato con tanta tenacia. Che al povero bimbo potesse derivarne uno svantaggio non poteva non pensare, ma si limitò a farci sopra un sorriso impertinente e superiore e si divertì a scoprire la causa effettiva della propria violenta antipatia per un matrimonio fra Mr. Knightley e Miss Fairfax o chiunque altra donna, che un tempo aveva attribuito soltanto alle amorevoli ansie della sorella e della zia. Questa proposta di lui, Questo piano di sposarsi e continuare a vivere ad Hartfield, più lo studiava e più lo trovava piacevole. Gli inconvenienti per lui parevano diminuire, i vantaggi per lei aumentare. I loro mutui benefici contribuire ad eliminare ogni ostacolo. Che compagno per lei nei periodi di ansia e di grigiore che le stavano innanzi, in tutti i doveri e in tutte le cure di cui il tempo avrebbe necessariamente accresciuto la malinconia. Troppo felice sarebbe stata se non era per la povera Harriet. Ma tutto ciò che era per lei benedizione sembrava implicare e accrescere le sofferenze dell'amica che ora si doveva escludere perfino da Hartfield. Dall'incantevole cerchio di famiglia che Emma si stava procurando, la povera Harriet doveva, per semplice, caritatevole cautela, essere tenuta lontana. Su ogni punto sarebbe rimasta soccombente. Certo, nella sua futura lontananza, Emma non poteva lamentare una diminuzione delle proprie gioie. In una simile cerchia familiare, Harriet sarebbe stata più che altro un peso morto. Ma per la povera ragazza sembrava una necessità ben crudele quella che infliggeva una pena così immeritata. Naturalmente, con l'andar del tempo, Mr. Knightley sarebbe stato dimenticato, cioè soppiantato, ma non ci si poteva attendere che avvenisse tanto presto. Mr. Knightley non avrebbe fatto nulla per favorirne la guarigione, diversamente dal reverendo Elton. Mr. Knightley, sempre così gentile, così sensibile, così pieno di sincere attenzioni per tutti, non avrebbe mai meritato d'essere adorato meno d'ora. E perfino da Harriet era troppo sperare che potesse innamorarsi di più di tre uomini in un anno. Fu un enorme sollievo per Emma quello di trovare Harriet non meno desiderosa di lei d'evitare un incontro. I loro rapporti erano già abbastanza penosi per lettera, quanto più lo sarebbero stati se avessero dovuto incontrarsi di persona. Harriet, come era da prevedere, si espresse senza formulare rimproveri e senza dar segno apparente di sentirsi trattata male. Ma Emma parve di leggere fra le righe qualcosa di simile a un risentimento, qualcosa che lo sfiorasse, e ciò rese ancor più desiderabile il distacco. Era forse solo la sua coscienza, ma pareva che solo un angelo potesse, sotto un colpo di quella violenza, non risentirsi. Non ebbe difficoltà a ottenere un invito da Isabella. E si tenne fortunata di avere sufficienti ragioni per chiederlo senza ricorrere a invenzioni. C'era un dente che non andava bene e Harriet desiderava proprio, e non da oggi, consultare un dentista. Mrs. Knightley fu felice di rendersi utile. Qualunque forma di malattia era per lei una raccomandazione. E pur non avendo per nessun dentista la stima che nutriva per Mr. Wingfield, si mostrò ben lieta di curarsi di Harriet. Appena risolta la questione con sua sorella, Emma sottopose il progetto all'amica e la trovò disposta a lasciarsi convincere. Harriet sarebbe andata. L'invito era per almeno 2 settimane e il viaggio sarebbe avvenuto nella carrozza del signor Woodhouse. Tutto fu combinato. Tutto andò liscio e Harriet giunse sana e salva in Brunswick Square. Dopodiché Emma poté davvero gustare le visite di Mr. Knightley, poté parlare da lui ascoltata con felicità vera, non velata dal senso di ingiustizia, di colpa, di pena, che era stata la sua ossessione finché ricordava che quel cuore deluso era accanto a lei. E quanto, nello stesso istante e poco lontano, sentimenti da lei stessa traviati dovessero soffrire. La differenza fra Harriet in casa di Mrs. Goddard e Harriet a Londra aveva forse per effetto una differenza irragionevole nelle sensazioni di Emma, ma questa non poteva pensarla a Londra senza motivi di curiosità e di svago che l'avrebbero indubbiamente distratta dal passato e da se stessa. E non permise che nuove ansie occupassero immediatamente il posto che nella sua anima aveva occupato Harriet. L'attendeva una comunicazione che a lei sola spettava. la confessione al padre del fidanzamento avvenuto, ma per ora non voleva farne nulla. Aveva deciso di rimandare la rivelazione a quando Mrs. Weston fosse guarita. Non si doveva gettare in mezzo alle persone a lei più care un nuovo turbamento, né permettere che la spinosa questione facesse sentire i suoi effetti su di lei prima del tempo. Doveva concedersi almeno una quindicina di giorni di distensione e di tranquillità mentale, a coronamento di ogni più caldo ma più conturbante diletto. Sia per dovere che per piacere, decise di impiegare una mezz'ora di questa vacanza dello spirito per far visita a Miss Fairfax. Doveva andarci ed era ansiosa di vederla, giacché ora la somiglianza delle loro condizioni accresceva ogni altra ragione di benevolenza. Sarebbe stata una soddisfazione segreta, ma la coscienza di un'affinità di prospettive avrebbe indubbiamente accresciuto l'interesse con cui doveva ascoltare tutto ciò che Jane avrebbe potuto dirle. Andò. A quella soglia un tempo si era recata invano, ma in casa non entrava dalla mattina dopo Box Hill, quando tale era stata l'angoscia di Jane da riempirla di compassione, sebbene il peggio delle sue sofferenze le fosse rimasto insospettato. La paura di non essere ancora gradita le consigliò, per quanto fosse certa della loro presenza, di attendere nell'ingresso e farsi annunciare. Udì Patty proferire il suo nome. Ma non ne seguì tutto il trambusto che, un tempo, la povera Miss Bates aveva fatto così felicemente sentire. No, Emma non udì che l'immediata risposta «pregala di salire». E un attimo dopo le veniva incontro tutta premurosa la stessa Jane, come se nessun'altra accoglienza fosse ritenuta bastevole. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.